Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Un breve riassunto della scorsa puntata. Il principe Andrei comincia ad annoiarsi in campagna e si trasferisce dunque a Pietroburgo, dove entra in società e ben presto viene nominato membro della commissione per la redazione del nuovo codice militare. Anche Pierre si trova a Pietroburgo, dove sua moglie sta diventando una delle donne più in vista dell'alta società. E la loro casa è frequentata tra l'altro da Boris Drubetskoy. E anche i Rostov sono a Pietroburgo, in mezzo però ad una situazione economica poco chiara. E giunge dunque gradita la richiesta di matrimonio da parte di Berg per la loro figlia Viera, la maggiore e la meno amata. Frattanto Boris riprende a frequentare i Rostov e in particolare Natasha. Non è però chiaro se tra i due giovani sopravviva o meno l'amore che si erano dichiarati alcuni anni prima. Il 31 dicembre del 1809 Natasha si reca ad un ballo, in casa, dice Tolstoi, di un gran signore del tempo di Caterina. Nell'aria umida e fredda, nella penombra della stretta carrozza dondolante, ella per la prima volta si rappresentò al vivo ciò che l'aspettava là, al ballo, nelle sale illuminate. La musica, i fiori, le danze, l'imperatore, tutta la gioventù di Pietroburgo. Quello che l'aspettava era così magnifico che le pareva impossibile che fosse vero, tanto contrastava con l'impressione di freddo, di scuro e di stretto che provava nella carrozza. Ella capì bene ciò che l'aspettava soltanto quando, passando sul tappeto rosso dalla porta, entrò nel peristilio, si tolse la pelliccia e accanto a Sonia, davanti alla madre, salì in mezzo ai fiori, su per la scala illuminata. Soltanto allora si ricordò come doveva comportarsi al ballo e si sforzò di prendere quell'atteggiamento maestoso che stimava indispensabile per una fanciulla in un ballo. Ma, per sua fortuna, sentì che i suoi occhi erano abbagliati. Non vedeva nulla distintamente. Il suo polso aveva 100 battiti al minuto e il sangue le pulsava nel cuore. Non poteva prendere quell'atteggiamento che l'avrebbe resa ridicola e camminava tremando d'agitazione e non cercando con tutte le sue forze che di nasconderla. Ed era proprio l'atteggiamento che le stava meglio di tutti. Nella sala gli invitati si assiepavano sulla porta d'ingresso, aspettando l'imperatore. La contessa prese posto nelle prime file della folla. Natasha udiva e si accorgeva che alcune voci domandavano di lei e che molti la guardavano. E la capì che era piaciuta a coloro che le avevano rivolto la loro attenzione, e questa osservazione la calmò un poco. Natasha guardava con gioia la faccia nota di Pierre, quel sacco di patate, come aveva detto la Peronskaya, e sapeva che Pierre tra la folla cercava loro e particolarmente lei. Pierre le aveva promesso di andare al ballo e di presentarle dei ballerini. Ma prima di giungere a loro, Bezukhov si fermò accanto a un bellissimo uomo bruno, non troppo alto, in uniforme bianca, che, ritto presso ad una finestra, discorreva con un uomo alto con varie placche e una fascia a tracolla. Natasha riconobbe subito il giovanotto. Era Balkonski, che le parve molto più giovane, più allegro e più bello. A un tratto tutto ondeggiò. La folla ebbe un mormorio, si avanzò, si divise di nuovo e fra due ali di persone che si facevano indietro, fra i suoni dell'orchestra che prese a suonare, entrò l'imperatore. Dietro a lui andavano il padrone e la padrona di casa. L'imperatore si avanzò, salutando rapidamente a destra e a sinistra, come se avesse fretta di liberarsi da quelle prime accoglienze. I musicanti suonavano una polacca allora in voga. Tutti fecero largo. E l'imperatore, sorridendo e conducendo per mano, senza andare al passo, la padrona di casa, uscì dalla porta del salotto. Natasha non si occupava né dell'imperatore né di tutti gli importanti personaggi che indicava la Peronskaya. Non aveva che un solo pensiero. Possibile che nessuno si avvicini a me? Possibile che io non debba ballare fra le prime? Che non si accorgano di me tutti questi uomini che ora pare non mi vedano neppure? No, questo non può essere, pensò. E si debbono pur sapere che io ho tanta voglia di ballare e che ballo tanto bene e che si divertirebbero tanto a ballare con me. Dall'orchestra vennero, distinte e caute, le note di un valzer, dal ritmo lento e suadente. L'imperatore con un sorriso guardò la sala. Passò un minuto. Nessuno ancora cominciava a ballare. L'aiutante di campo, che dirigeva tutto, si avvicinò alla contessa Bezukhova e la invitò. Ella, sorridendo, alzò un braccio e l'appoggiò sulla spalla dell'aiutante, senza guardarlo. Natasha li guardava ed era lì per piangere all'idea di non ballare quel primo giro di valzer. Pierre si avvicinò al principe Andrei e lo prese per un braccio. «Voi ballate sempre. C'è qui la mia protégé, la giovane Rostova. Invitatela», disse. «Dov'è?» domandò Balconski. Il viso di Natascia, disperato e teso, diede subito nell'occhio al principe Andrei. Egli la riconobbe, indovinò il suo sentimento, capì che era una principiante, si ricordò i suoi discorsi alla finestra e con una lieta espressione del viso si avvicinò alla contessa Rostova. «Permettete che io vi faccia fare la conoscenza di mia figlia», disse la contessa arrossendo. «Io ho già il piacere di conoscerla, se la contessina si ricorda di me», disse il principe Andrei con un profondo e rispettoso inchino, avvicinandosi a Natascia e alzando il braccio per allacciarle la vita prima ancora di aver terminato di proferire il suo invito a ballare. Le aveva chiesto un giro di valzer. L'espressione tesa del viso di Natascia, pronto alla disperazione come all'entusiasmo, a un tratto si illuminò di un sorriso fanciullesco, felice e riconoscente. «Da un pezzo io ti aspettavo», pareva che dicesse quella fanciulla spaurita e felice, col suo sorriso che spuntava fra le lacrime già pronte, alzando la mano per posarla sulla spalla del principe Andrei. Essi erano la seconda coppia che entrava nel circolo. Il principe Andrei era uno dei migliori ballerini del suo tempo. Natascia ballava magnificamente. I suoi piedini, nelle scarpette da ballo di raso, facevano l'opera loro rapidamente, leggermente e senza che ella stessa se ne accorgesse, ma il suo viso splendeva di gioia e di entusiasmo. Il suo collo e le sue braccia nude erano troppo magre e non belle in confronto alle spalle di Hélène. Le sue spalle erano gracili, il seno indefinito, le braccia sottili, ma su di Hélène pareva ci fosse già la vernice dei mille sguardi che avevano sfiorato il suo corpo, mentre Natascia appariva una fanciulla che si scollava per la prima volta e che se ne sarebbe vergognata molto se non l'avessero persuasa che così era necessario di fare. Il principe Andrei amava il ballo, e volendo sottrarsi al più presto a quei discorsi politici e sapienti che tutti si mettevano a fare con lui e a quella soggezione per lui fastidiosa che la presenza dell'imperatore faceva regnare, era andato a ballare e aveva scelto Natascia perché Pierre gliel'aveva indicata e perché era stata la prima donna graziosa che gli fosse venuta sott'occhio. Ma appena ebbe stretta quella sottile e flessibile vita e la sentì muovere e ridere così vicino a lui, il vino inebriante della sua leggiadria gli diede al capo. Egli si sentì pieno di vita e ringiovanito quando, riprendendo fiato e lasciandola, si fermò e si mise a guardare le coppie danzanti. E così, dopo il principe Andrei, anche Boris invita Natascia a ballare, e poi l'aiutante di campo e altri giovani. E così la ragazza non smette di ballare per tutta la sera. In un successivo ballo con lei, il principe Andrei le confessa d'averla ascoltata quella sera a Otradnoje. La freschezza della ragazza, la sua timidezza e anche i suoi errori di francese affascinano il principe profondamente. Pierre a quel ballo per la prima volta si sentì umiliato dalla posizione che sua moglie occupava nelle alte sfere. Egli era di cattivo umore e distratto. Sulla sua fronte c'era una ruga profonda e, ritto presso la finestra, egli guardava attraverso gli occhiali senza vedere nessuno. Natascia, che andava verso il luogo dove era servita la cena, gli passò davanti. Il cupo, malinconico viso di Pierre la colpì. Ella si fermò di faccia a lui. Avrebbe voluto aiutarlo, dargli il sovrappiù della sua gioia. «Come ci si diverte qui, conte», disse. «Non è vero?» Pierre le sorrise distratto, evidentemente senza capire che cosa gli dicevano. «Sì, sono molto contento», rispose. «Come si può essere malcontenti di qualche cosa?» pensò Natascia. «Specialmente una così brava persona come quel Bezukhov». Agli occhi di Natascia, tutti coloro che si trovavano al ballo erano ugualmente buoni, simpatici, eccellenti, e dovevano amarsi l'un l'altro. Nessuno poteva offendere un altro, e perciò tutti dovevano essere felici. Il giorno seguente al ballo, il principe Andrei si mette al lavoro. Bitsky, che è membro di diverse commissioni, lo viene a trovare e inizia a riferirgli i particolari della seduta del Consiglio di Stato, che si è tenuta quella stessa mattina. Però il principe è distratto e anche dopo, a pranzo da Speransky, l'allegria dei convitati gli appare faticosa e malinconica e così prende congedo il prima possibile. «Dove andate così presto?» disse Speransky. «Ho promesso di andare a un ricevimento». Tacquero. Il principe Andrei guardava da vicino quegli occhi vitrei che tenevano la gente a distanza e gli parve ridicolo di aver potuto aspettarsi qualche cosa da Speransky e da tutta la propria attività legata a lui e di aver potuto attribuire tanta importanza a ciò che faceva Speransky. Quel riso misurato, senza allegria, seguitò a risonare agli orecchi del principe Andrei molto tempo dopo che egli aveva lasciato Speransky. E così, il giorno seguente, il principe Andrei se ne va a casa dei Rostov e accetta l'invito a pranzo che gli viene fatto. Dopo pranzo, Natascia, pregata dal principe Andrei, andò al cembalo. Il principe Andrei stava presso alla finestra, discorrendo con le signore, e l'ascoltava. A metà d'una frase, il principe Andrei tacque e sentì inaspettatamente le lacrime fargli nodo alla gola, cosa della quale non sospettava di essere capace. Guardò Natascia e qualcosa di nuovo e di lieto gli sorse nell'anima. Era felice e insieme si sentiva triste. Non aveva assolutamente nessun motivo di piangere, eppure si sentiva sul punto di piangere. Su che? Sul suo antico amore? Sulla piccola principessa? Sulle sue delusioni? Sulle sue speranze per il futuro? Sì e no. Più di tutto avrebbe voluto piangere su quella terribile contraddizione che gli era apparsa tutta un tratto così viva, fra quello che c'era in lui di infinitamente grande ed indefinibile e quel non so che di angusto e di corporeo che era lui e che era anche lei. Questa contraddizione lo tormentava e lo rallegrava durante il canto di lei. Appena Natascia ebbe finito di cantare, si avvicinò a lui e gli domandò se gli piaceva la sua voce. Domandò questo e si confuse subito dopo, avendo capito che non era domanda da farsi. Egli sorrise, guardandola, e disse che il suo canto gli era piaciuto come tutto ciò che ella faceva. Il principe Andrei lasciò i Rostov tardi nella serata. Andò a letto per abitudine, ma subito vide che non avrebbe potuto dormire. Ora accendeva la candela e si sedeva sul letto, ora si alzava, ora si coricava di nuovo senza sentire il peso dell'insonnia. Tanto era nuovo e gioioso quel che sentiva nell'anima, come se da una stanza soffocante fosse uscito alla libera luce di Dio. Non gli veniva neppure in mente d'essere innamorato della Rostova. Non pensava a lei. Se la immaginava solamente e in seguito a ciò tutta la sua vita gli appariva sotto una nuova luce. Perché mi dibatto? Perché mi affanno in questa stretta, chiusa cornice, quando la vita, tutta la vita, con tutte le sue gioie, è aperta davanti a me? Diceva a se stesso. E per la prima volta, dopo lungo tempo, cominciò a fare lieti progetti per l'avvenire. Decise fra sé che si doveva occupare dell'educazione di suo figlio, trovargli un precettore e affidarglielo. Poi doveva lasciare il servizio attivo e partire per l'estero, vedere l'Inghilterra, la Svizzera, l'Italia. «Devo approfittare della mia libertà, finché sento in me tutta questa forza, tutta questa gioventù», diceva a se stesso. Pierre aveva ragione dicendo che si deve credere nella possibilità della felicità per essere felici, e ora io ci credo. «Lasciamo che i morti seppelliscano i morti». Ma finché siamo vivi, bisogna vivere ed essere felici, pensava. E naturalmente, come gli ascoltatori avranno già immaginato, il principe Andrei fa la sua proposta di matrimonio a Natascia. E Pierre, solitario e ipocondriaco, diventa d'umore sempre più nero, accorgendosi di questo sentimento nascente tra il suo amico Andrei e la sua protetta Natascia. E il padre di Andrei accoglie la notizia del progetto matrimoniale con freddezza e chiede al figlio di prendere un anno di ripensamento. I genitori di Natascia, invece, accettano con piacere la proposta. Noi ora riprendiamo a leggere proprio dall'incontro tra i due innamorati. Natascia non si ricordò mai come fosse entrata nel salotto. Sulla porta, vedendo lui, si fermò. «Quest'uomo estraneo è dunque ormai tutto per me?» si domandò e istantaneamente rispose «Sì, tutto. Lui solo ora m'è più caro di tutto al mondo». Il principe Andrei le si avvicinò con gli occhi bassi. «Vi ho amata dal primo momento che vi ho vista. Posso sperare?» La guardò e fu colpito dall'espressione seria e appassionata del suo viso. Il viso di lei diceva «Perché domandarlo?» Perché dubitare di ciò che è impossibile non sapere? Perché parlare, quando a parole non si può esprimere quel che si sente? Ella gli si accostò e rimase ferma. Egli le prese la mano e la baciò. «Mi amate?» «Sì». «Sì», proferì Natasha quasi con rabbia. Sospirò profondamente una volta, una seconda, e poi sempre più in fretta, e scoppiò in singhiozzi. «Perché? Che avete?» «Ah, sono tanto felice», rispose ella sorridendo attraverso le lacrime, e si chinò verso di lui. Pensò un attimo, come domandandosi se potesse farlo, e lo baciò. Il principe Andrei le teneva le mani, la guardava negli occhi e non si ritrovava nell'anima il suo amore di prima. Nell'anima sua a un tratto qualcosa era mutato. Non c'era più la poetica e misteriosa dolcezza del desiderio di prima, c'era invece la pietà per quella debolezza di donna e di bambina. C'era la paura innanzi a quella dedizione e a quella fiducia, c'era una pesante e pur lieta coscienza del dovere che lo legava eternamente a lei. Il sentimento attuale, benché meno luminoso e poetico di prima, era più serio e più forte. «Vi ha detto Maman che questo non potrà essere prima di un anno?» disse il principe Andrei, seguitando a guardarla negli occhi. «Possibile che io, quella fanciulla bambina, così mi chiamavano tutti», pensava Natasha, «che io ora, da questo momento, sia la moglie, l'eguale di quest'uomo estraneo, così simpatico, così intelligente, che anche mio padre rispetta. Possibile che sia vero? Possibile che ora non si possa più scherzare con la vita? Che io sia grande? Che sia ormai responsabile di ogni mia parola, di ogni mio atto? Ma che cosa mi aveva domandato?» «No», rispose, ma senza capire quel che egli le aveva domandato. «Perdonatemi», disse il principe Andrei, «ma voi siete così giovane e io ho già tanta esperienza della vita. Ho paura per voi, voi non vi conoscete». Natasha ascoltava, concentrando tutta la sua attenzione, sforzandosi di capire il senso delle sue parole, ma non capiva. «Per quanto mi possa essere duro quest'anno di proroga alla mia felicità», seguitò il principe Andrei, «in questo tempo voi vi esaminerete. Fra un anno vi chiederò di farmi felice, ma siete libera. Il nostro fidanzamento resterà segreto. E se voi vi persuaderete di non amarmi o se amaste», disse il principe Andrei con un sorriso innaturale. «Perché dite questo?» l'interruppe Natasha. «Voi sapete che fin da quel giorno, quando veniste la prima volta a Outradnoje, vi ho amato», disse ella, fermamente persuasa di dire la verità. «In un anno vi conoscerete meglio». «Un anno intero», disse improvvisamente Natasha, che ora soltanto aveva capito che il matrimonio era rimandato di un anno. «Ma perché un anno? Perché un anno?» Il principe Andrei si mise a spiegare il motivo di questo ritardo. Natasha non lo ascoltava. «E non può essere altrimenti?» domandò. Il principe Andrei non rispose nulla, ma il suo viso espresse l'impossibilità di cambiare questa decisione. «È tremendo! No, è tremendo, tremendo!» proruppe a un tratto Natasha e scoppiò di nuovo in singhiozzi. «Morirò ad aspettare un anno! È impossibile! È tremendo!» Ella gettò uno sguardo in viso al suo fidanzato e vi lesse un'espressione di pietà e di sorpresa. «No, no, no, farò tutto quello che devo», disse, fermando di colpo le lacrime. «Sono così felice». Il padre e la madre entrarono nella stanza e benedissero il fidanzato e la fidanzata. E da quel giorno il principe Andrei cominciò ad andare come fidanzato in casa Rostov. La salute e il carattere del principe Nikolai Andreevich Balkonsky si erano molto indeboliti in quell'ultimo anno dopo la partenza del figlio. Egli si era fatto ancora più irritabile di prima e tutti i suoi accessi di collera senza motivo si riversavano per la maggior parte sulla principessina Maria. Pareva che facesse apposta a cercare tutti i punti più sensibili di lei per tormentarla moralmente nel modo più crudele. Nell'inverno giunse a Lisiagori il principe Andrei. Era allegro, affettuoso e tenero, come la principessina Maria non lo aveva veduto da un pezzo. Ella presentiva che qualcosa gli era accaduto, ma lui non disse nulla alla principessina Maria del suo amore. Prima di partire, il principe Andrei parlò lungamente col padre, e la principessina Maria si accorse che al momento della partenza essi erano scontenti l'uno dell'altro. A metà dell'estate la principessina Maria ricevette un'inattesa lettera del principe Andrei dalla Svizzera, nella quale le partecipava il suo fidanzamento con la Rostova. Tutta la sua lettera aspirava un entusiastico amore verso la sua fidanzata e un tenero affetto pieno di fiducia verso la sorella. Egli scriveva che non aveva mai amato come amava ora e che ora soltanto aveva capito e conosciuto la vita. Dopo lunghe esitazioni, dubbi e preghiere, la principessina Maria consegnò la lettera al padre. E il giorno dopo il vecchio principe le disse tranquillamente: «Scrivi a tuo fratello che aspetti che io sia morto. Non sarà fra molto. Presto gli leverò l'incomodo». La principessina voleva obiettare qualche cosa, ma il padre non la lasciò finire e cominciò ad alzare sempre più la voce. «Sposala, sposala, carino! Bella parentela! Gente intelligente, eh? Ricca, eh? Già, Nikolushka avrà una buona matrigna. Scrivigli che si sposi anche domani. Lei sarà la matrigna di Nikolushka e io sposerò la Burienna. Perché non resti senza matrigna anche lui. Una cosa però, donne non ne occorrono più in casa mia. Si sposi pure e vada a stare da sé. Forse anche tu te ne vuoi andare con lui?» fece rivolto alla principessina Maria. «Che Dio ti accompagni nel gelo! Nel gelo! Nel gelo!» La principessina Maria scrisse al principe Andrei come il padre aveva accolto la sua lettera, ma consolava il fratello dandogli speranza di poter far accogliere al padre quell'idea. Nikolushka e la sua educazione, Andrei e la religione erano le consolazioni e le gioie della principessina Maria. Ma oltre a questo, siccome ognuno ha bisogno di qualche sua personale speranza, la principessina Maria aveva, nascosti nel più profondo segreto dell'anima sua, un sogno e una speranza che formavano la maggiore consolazione della sua vita. Questo sogno consolatore e questa speranza le erano dati dalla gente di Dio, i poveri di spirito e i pellegrini che venivano a visitarla di nascosto dal padre. Quanto più viveva la principessina Maria, quanto più esperienza aveva della vita e quanto più la osservava, tanto più era stupita dalla cecità della gente che cerca qui sulla terra il godimento e la felicità, si affatica, soffre, lotta, si fa vicendevolmente del male per conseguire questa felicità impossibile, immaginaria e peccaminosa. Il principe Andrei amava la moglie, ella era morta. Questo non gli bastava. Egli voleva ritrovare la sua felicità con un'altra donna. Il padre non voleva, perché desiderava per Andrei un matrimonio più cospicuo e più ricco. E tutti lottavano, e soffrivano, e si tormentavano, e si rovinavano l'anima, l'anima eterna, per ottenere un bene la cui durata era di un istante. Non soltanto era una cosa che sapevamo noi stessi, ma Cristo, il Figlio di Dio, era sceso sulla terra e ci aveva detto che questa vita è la vita di un istante, una prova. E invece noi tutti ci tenevamo e credevamo di trovarvi la felicità. «Come mai nessuno ha capito questo?» pensava la principessina Maria. «Nessuno, tranne questa disprezzata gente di Dio, che con la sacca in spalla vengono da me per la porta di servizio, temendo di essere veduti dal principe, e non perché egli non possa far loro del male, ma per non indurlo in peccato. Abbandonare famiglia e patria, ogni pensiero di beni mondani, e, non attaccati a nulla, andare errando da un luogo all'altro, vestiti di umili cenci, con un falso nome, senza fare male alla gente e pregando per essa, pregando per quelli che li scacciano e per quelli che li proteggono. Non c'è una verità e una vita più alta di questa verità e di questa vita». Spesso, ascoltando i racconti dei pellegrini, ella si infiammava a quei discorsi semplici che essi facevano macchinalmente, ma che per lei erano pieni di un senso profondo, sicché diverse volte era stata pronta ad abbandonare tutto e a fuggire di casa. «Giungerò in un luogo. Mi metterò a pregare. Non giungerò ad abituarmi, ad amare quel luogo e andrò oltre. E andrò finché le gambe mi si piegheranno. E poi mi sdraierò in terra e morirò in un posto qualunque, e finalmente giungerò a quell'asilo eterno e tranquillo, dove non c'è né dolore né rimpianto», pensava la principessina Maria. Ma poi, vedendo il padre, e specialmente il piccolo Cocò, perdeva a poco la sua risolutezza, piangeva nascostamente e sentiva d'essere una peccatrice. Amava suo padre e il suo nipotino più di Dio. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi musicata da Paolo Terni. A cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it